Povera Italia nelle mani di chi siamo, giovani che sognano e non sanno da dove veniamo, senza valori e senza un piano di investimento sul futuro, dai non scherziamo. Povera Italia e le sue ambizioni di essere qualcuno a parte condizioni, che nessun altro ci ponga condizioni, e se si esagera qui si firmano petizioni. Povera Italia, vedo ragazzi in tele che si atteggiano da miti, ma chi cazzo vi credete? Siete la feccia che non guarda in faccia alla realtà o fareste una figuraccia. Povera Italia, quel destino che ormai sembra scritto, io sarò anche vecchio ma tu prova a stare zitto e porta rispetto a chi ti dà la parola, solo perché l'educazione l'ha imparata a scuola. Povera Italia, Italia, povera Italia, in Italia chi sbaglia paga, no taglia. Povera Italia, che gentaglia, in Italia, povera Italia, povera Italia, sì. Povera Italia, povera Italia, ma chi stima a politici che non sanno dove io, e qui sta parlando mentre battiamo i mani, aspettiamo un cambiamento a sette sopra un dono. Povera Italia, figli di chi parla sei, e quando serve sparisce, ma questo sei. Giù condanna sopra, giù condanna troppo, e una condanna con dai sei mai forse. Povera Italia, vittima di bullismo, dai in Europa che ha lucco razzismo, e che predilige a tutela tu più forte, vivi in banca e chi firma la pena morte. Povera Italia, dove non mi ci trova, e vacannanzo comunque ci prova, tanto che cazzo, teniamo da perdo, futuro è nero, noi siamo tutto a verde.